24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Genovesi, verrei anche a sparare, ma non vorrei che le macchie di fango mi rovinassero la camicia bianca. Invece Grillo è andato a Genova solo oggi. Eccomi qua ragazzi, sono venuto a sparare. Ah, mi mandate a fanculo. Avete organizzato un Waffa Day al contrario. E va bene, lo prendo, dai. Ma il più signore di tutti, come sempre, è stato Berlusconi, che per solidarietà con la gente di Genova è andato a cena con Vladimir Luxuria. Ma mi si nota di più. Se scrivo un pippotto su Facebook, se arrivo con la pala in ritardo, o se vado a cena con una ragazza che la pala la porta di su. Questo è Maurizio Crozza, ieri a Di Martedì. Adesso devo abituarmi, mamma mia, è automatico dire Crozza Ballarò, invece adesso Crozza Di Martedì, ma cambia, ti cambia il mondo sotto i piedi, non capisci più niente. Alle 6:30 minuti in questo istante, cari ascoltatori, questa è la nuova puntata di 24 Mattino. Se volete dirci che cosa state facendo, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Vi divertite? Avete già affrontato la giornata? Siete lì che già in coda su qualche tangenziale strana? Qualche via che percorrete per andare a lavorare? Noi siamo qui pronti con Lorenzo Nespoli in redazione, con Paolo Corleone oggi in regia. Cosa ci fai qui? Ti hanno trovato su un viale, ti hanno raccattato e ti hanno detto vieni a lavorare. Che è successo? Che è successo? Come mai sei qui? Ma non si sa. Comunque, siamo pronti alle 6:30 minuti ad aprire il Parlamento. Forza! Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Parlamento, forza, forza, gente. Allora, saluto subito la nostra Paola Saluzzi. Buongiorno Paola, come stai, ma generalessa? Come sto? Arrabbiata. Grazie, Lino. Ho subito fatto la mia bella figura. Cioè? Ho parlato con il nostro ormai Lorenzo Nespoli, sì? Chiamandolo Luca per 5 minuti. Forza Luca, avanti. Ah, come ti trovi? E lui molto educato. Sì, bene. Eh sì, l'orario è strano, ma poi alla fine ho detto, bene Luca, allora buon lavoro. Lorenzo. Te l'ha detto alla mi fine. Sono sentita una, ma un rimbambero. Ma no, ma no, ma no. Poi arriva, sì, vabbè, perché tu avevi in mente un altro Luca. Lorenzo Dini, no, Luca Dini, eccolo qui, Luca Dini, il direttore di Vanity Fair, eccolo lì. Direttore Errimo, buongiorno. E allora, buongiorno. Ci siamo anche oggi. Allora, io non voglio parlare di legge di stabilità, dai, perché se dobbiamo parlare di tasse, mamma mia. Per carità, lasciamo stare. Invece, attenzione, ma cosa è successo? Voglio subito chiedere, cosa è successo a Berlusconi, secondo voi? Questa storia di Vladimir Luxuria, che adesso fa delle interviste, si diverte, dice mi ha portato nella sala del Bunga Bunga, chi è che mi ha accolto all'arrivo ad Arcore? Dudu e Dudina mi hanno accolto sulla porta. Cioè, voi capite? Ma anche, insomma, prestare il fianco a questa serie di interviste che ora Vladimir Luxuria dirà farà. Ce n'è una in cui ha detto, attenzione, ha detto questo a Silvio, ha detto presidente, ma Dudu mi attacca e non mi porta neanche un mazzo di fiori e già mi lecca. E lui ha riso e ha detto una poesia di Madre Teresa sugli animali. Ma c'è una scena. Partono i violini. Cosa? Partono i violini. No, ma infatti, cioè, qui siamo veramente all'invito. Paola Saluzzi, sboccerà un amore? No. Sta cambiando qualcosa, nel senso che probabilmente si è accesa una curiosità ancora maggiore, e questo è molto buono, sì. A parte che Vladimir è persona straordinaria, per cui voglio dire è giusto anche che questa curiosità si accenda, e l'uomo sicuramente spariglia le carte anche stavolta, e vediamo che cosa succederà. Vedremo. Intanto è finita così. Guarda com'è finita, Vladimir Luxuria, senti. Due selfie, ecco, che ho fatto, una io, Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, e l'altra con Dudu. Dudu. Oh, il selfie con Dudu, caro Luca Didi, quanto pagheresti per il selfie Luxuria Dudu? Ma che è che ha scattato poi niente, Dudu? Posso dire. No, niente. Vorrei sapere poi chi ha scattato la foto, se Dudu. Selfie, sì, o Dudu o Luxuria, esatto. Oppure sentite la sala del Bunga Bunga, ovviamente era ieri a Radio Capital, fa una trasmissione su Radio Capital, Vladimir Luxuria, sentite qua. L'ho vista poi questa famosa sala del Bunga Bunga. Oh, e dici, verso la fine, dopo che lui mi stava accompagnando alla macchina, perché mi ha accompagnato proprio fino alla macchina, sì. Il cavaliere, anzi, ex cavaliere, però... E mi ha detto adesso le faccio vedere questa. Allora io ho chiesto dove era il palo della lap dance, perché non l'ho visto. Sì, e c'era. Non c'era questo palo, c'era. Che delusione, guarda. Mannaggia, hanno tolto pure il palo della lap dance, vabbè. Ma magari io siamo il Louvre, no? Cioè, sai, ho visto il museo. No, vabbè, ma la questione vabbè, è molto, in realtà nasconde un qualcosa di molto serio. Il dibattito, ed è l'apertura di Repubblica di oggi, attenzione, l'apertura di Repubblica è questa. Arriva a giorni la legge sulle unioni civili, Renzi la presenterà, è la legge alla tedesca, cioè ci saranno proprio come dei matrimoni tra omosessuali, tranne per due cose fondamentali: non si chiameranno matrimoni e non ci sarà la possibilità di adottare, a meno di adozione del figlio, del compagno, della compagna, ma insomma di adottare. Allora, siamo pronti secondo te, Luca Dini? Ne abbiamo parlato tante volte, perché pare che Renzi abbia detto ai vescovi, l'ho detto, mettetevi l'anima in pace. Ma il paese era pronto da un pezzo, era la politica che non era pronta. E infatti io, Berlusconi, più che al palo del Bunga Bunga, lo aspetto al palo del Parlamento, perché... voglio vedere che cosa fa Forza Italia, perché insomma ricordiamoci che questo è un movimento politico che ha sempre fortemente osteggiato questa cosa. Certo, per me è una conversione molto molto sospetta, se posso dire. Sospetta, per voti. Sì. Attenzione, perché c'è un dibattito all'interno del centrodestra, molti dicono attenzione a prendere tanti applausi, ma non prendere voti. Bisogna capire se poi questa sia una conversione, diciamo così, che porta dei voti. Il dibattito è aperto, c'è qualcuno ovviamente che ha fatto, cara Saluzzi, anche le solite battute del tipo ma come una trans che ci detta la linea, ormai la linea politica. Effettivamente qualcosa di strano sta succedendo, Ma sicuramente a livello politico sta succedendo. Io credo che la vera grande rivoluzione, così magari qualcuno si metterà l'anima in pace, la stia facendo Papa Francesco, come al solito, nel senso che tutto con questo curiosamente coincide con quanto da questo sinodo troppo, anzi i giornali ne parlano, ne parlano e come, tutti ne stiamo parlando, ma purtroppo troppo poco rispetto a quanto dovremmo e potremmo fare, perché sono talmente tanti anche gli altri eventi che capitano, insomma, tra un paese che frana e ovviamente un paese che deve uscire dalla frana economica, che non gli stiamo dedicando sufficiente attenzione. Sta succedendo una rivoluzione vera, vera, immensa, immensa, e la sta capitanando un uomo vestito di bianco, punto. Poi il resto è la politica che correttamente, sì, finalmente fa qualcosa rispetto a un paese e a una idea che sta finalmente cambiando. Sì, sta questo cambiando, è. Però ci sa- io voglio chiedere... Poi chi sale sul carro ne sta approfittando? Non lo so, di fatto i voti non so neanche se arriveranno quelli, di fatto sta cambiando tutto. Sì. Sì, poi politicamente parlando vedremo, ma di fatto sta cambiando tutto. Ma il paese è già cambiato. Ma il paese è cambiato, se ne rende conto, però sì. Bisogna capire, direttore, fin dove ci si può spingere. Cioè anche Matteo Renzi, in questa proposta di legge che farà, vedi che non darà l'adozione per i bambini. Allora vi voglio chiedere su questo punto, che ne pensate? Siete, immagino, e questo l'abbiamo capito, l'avete detto varie volte, per le unioni e i matrimoni anche tra persone dello stesso sesso. Comunque chiamiamola come vogliamo, unioni civili, si chiamerà così dopo. Poi dico, daco, di dore, unioni civili, così si chiamerà. Ma vorreste anche la possibilità per due omosessuali di adottare come una coppia eterosessuale, Luca? Francamente, lo sai, devo essere onesto, non lo so, e penso che siano cose che devono avvenire per gradi, quindi è già molto quello che Renzi promette, è già molto molto di più di quello che c'è adesso, cioè niente. Certo. Poi credo che quello che succede nei paesi è che ci si abitua ad alcune cose e poi cambia anche idea. E poi è possibile che poi, che io, se me lo chiedi fra 6 mesi o un anno, io ti dica sono favorevole, non lo so. Quindi diciamo al momento sia le unioni e poi magari col tempo ci abitueremo anche a questo, no? Perché io sono un po' più restio sulla questione delle adozioni, ma banalmente quando mi dicono perché, ma penso che un bambino debba crescere con due persone di sesso diverso, ma è un'opinione, non è però anche così radicata. Anche se, come dicevi tu, succede già. Ma certo, succede. È sufficiente che una persona abbia dei figli e poi il compagno se ne occupi giustamente insieme, ed ecco che già succede. E in questo caso sarebbe consentita l'adozione, per cui sicuramente c'è un qualcosa di un po' fatto a metà, ecco, un po' di... C'è un passo alla volta da fare, punto. Un passo alla volta, un passo alla volta. Remo, sei molto renziana oggi. Un passo alla volta. Passo dopo passo. Allora, Francesco da Mantova ci scrive che fa il debosciato e ci ascolta a letto. Va bene, va benissimo, va bene. E una fiorista di Roma, che bello! Ci scrive, sto andando a comprare i fiori. Ma che bello. Bello, una fiorista di Roma. Che bello. Mentre Dia Paola, che può chiamarmi come vuole. Mi chiamo Massimo, ma va bene anche Ugo. C'è questo ascoltatore che è sempre questo, credo. È Massimo il tuo fan più accanito, cioè, puoi chiamarlo caro Massimo, lo chiamerò Massimo, anche Ugo, non importa, basta che lo chiami, fai qualcosa, va bene. E poi ecco, c'è questa cosa qui. Oh, non so, adesso sembra che facciamo un accanimento totale, ma c'è un ascoltatore che mi scrive: se la Brescia non viene a Radio 24 io vado a RDS. No, caro ascoltatore, questo non vale, perché mi tirerei la famosa zappa da 7 kg. La zappa da 7 kg? Non dico dove. No, però, cara Rossella Brescia, free Rossella Brescia, fate Vobis, io non insisto più. Lucadini, tu che hai entrature a RDS, tu che a RDS hai voce in capitolo, lo so. No, a me non è niente, però insomma l'ho già detto, liberatela, insomma, fate qualcosa effettivamente, liberatela. Vabbè, quindi insomma queste adozioni staremo a vedere, ma ci saranno conflitti con la Chiesa secondo voi? Oppure Paola, tu dici viste le aperture, però insomma non è che è la stessa cosa. Non si possono fare le cose in un'ora, per cosa intendo dire? Che se non andiamo a guardare la nostra storia pregressa, la nostra storia come paese, l'Oltretevere, tutto ciò che ci riguarda e che ci ha riguardato nel corso di questi anni barra... Ma dove sei finita? In cantina? Sei in cantina? Perché... No. Perché? Non mi sentite più? C'è il cellulare che ogni tanto va e viene. No, è il cellulare, ma insomma oggi è tutto... Oggi è tutto un complotto. Signor. Allora, dicevo, se non si capisce che ci sono operazioni che vanno fatte gradi, si sbaglia, si rischia di dare a questo punto, il direttore ha detto la cosa, devo dirlo, come sempre più giusta, il paese è già cambiato. Io mi sono riferita al cambiamento epocale e ormai dal quale non si torna più indietro che ha fatto Papa Francesco, e non è solo questo, è partito da molto più lontano, sulle adozioni, per favore aspettare anche per il bene degli stessi bambini che potrebbero essere adottati, aspettare. Vabbè. Perché sennò si crea una grande marmellata, si crea un grande caos. La saggezza della generalessa Paola Saluzzi. Ma parliamone. Qui però dobbiamo come dire, spogliarci di tutta la nostra saggezza e di tutta la nostra serenità per parlare di quello che sta succedendo sul maltempo, ragazzi. Ma in Toscana ancora 2 morti, ma si può morire per il maltempo, per della pioggia intensa? Io veramente non ci credo. Ieri sono morte 2 sorelle sui 60 anni, le hanno trovate in una macchina travolta dal fango in Toscana. E ieri Beppe Grillo è andato nella sua Genova. Dai, la palla in mano, prendi, prendi la palla in mano, vieni a sparare. Vuoi che abbia problemi a sparare? Fabio. Monta. Per avere qualche spot devi starne a stare a casa. È una buona visione del futuro. Ci sei tu, siamo dalla stessa parte. Ci sono io, le istituzioni dovrebbero essere qua. E voi siete il futuro, andate a far spalare Renzi. Andate a far spalare Renzi, a un certo punto ha detto Beppe Grillo. Allora, parliamoci chiaro, cioè dire oggi giornale, tanto qualunque cosa dico adesso i grillini si arrabbieranno oppure diranno venduto servo di qui, è stato contestato, ma è ovvio, cioè chiunque rappresenti in qualche modo la politica in questo momento vada per le strade a Genova, è normale, è ovvio, viene preso, come dire, no, Luca Dini, gli si rinfaccia tutto, la rabbia. Anche perché non c'è andato anonimamente mascherato a spalare. Non si va a strumentalizzare o scherzare sui disastri. Quindi se l'è proprio cercata. Ma in realtà lui dice: io sono qua. A un certo punto io l'ho seguito tutto, nel senso che ieri lo seguivano con la telecamera. Lui diceva: ragazzi, ma io se volete mi prendo pure la colpa di qualcosa che non sento, non sento di avere. Insomma, però sono qui a rendermi conto, a vedere. Sono di Genova, certo è arrivato un po' in ritardo, però c'era stata la kermesse del Circo Massimo, doveva andare lì. Comunque la metti, Paola, qui, insomma. Ma ci sta anche che la gente contesti, Ma cioè, sì, non no, è che ci siano soggetti incontestabili e soggetti contestabili, cioè la gente ti vede e contesta la tua presenza. Per carità, Grillo si è fatto contestare, insomma, voglio dire, non ha opposto resistenze ha alzato le mani per lesa maestà. Ci sta anche che la gente mandi all'altro paese anche chi attualmente manda all'altro paese la gente politica chiaramente, o chi non fa bene il proprio dovere. Anche Grillo si è beccato la contestazione. Tra l'altro. Cosa fatta capo A? È chiaro. Poi si è presentato, ragazzi, con dei veramente. Butta fuori, diciamo la verità. Il Corriere della Sera racconta che uno di questi, che basta vedere le immagini, spintonavano appena uno cercava di avvicinare. No, dei Marcantoni, uno di questi fa parte di un meetup di Genova e ammette al Corriere della Sera una condanna per spaccio di droga. Beppe Grillo a un certo punto ha messo anche un po' tra il suo show, il suo modo di fare sempre molto così, no, con i giornalisti, un po' aggressivo. Vuoi fare un'intervista? Di che canale sei? La Rai. Allora, la Rai ha 1.700.000.000 di nostro denaro pubblico. Per una mia intervista costa 2.000 euro. Li mettete su questo IBAN, lo vedete, a mio nome per l'alluvione di Genova. Quando avete versato i 2.000 euro sono a vostra disposizione per un'intervista. Se no andate a fare in culo. Eccolo lì, Luca Dini, è abbastanza chiara la posizione, voglio dire. Diciamo che se l'è cercata anche la giornalista. Che poi secondo me Beppe Grillo non si rende conto che la giornalista della Rai in questione, in quel momento, è contentissima perché il suo pezzo l'ha già fatto con questa dichiarazione, il pezzo l'ha già portato a casa, perché no, non gliene frega niente di fare un'intervista, ma già lui che si mette lì e gli spiega perché voi avete i debiti, quindi omettete 2.000 euro oppure vi mando a fanculo. Ma l'ha fatto anche con Sky, che non ha debiti, quindi c'è qualcosa che non ha. Anche con Sky, cioè con tutti. Ma ecco, però c'è questo dubbio. Ieri pare che Ballarò abbia fatto un'intervista a Beppe Grillo. Ora, io sono venuto qui stamattina e ho detto: ma avranno mica pagato 2.000 euro di soldi nostri Ballarò, la Rai, per fare un'intervista a Beppe Grillo? Perché se tanto mi dà tanto, avranno dovuto pagare, no? Facciamo una crociata contro i 2.000 euro pagati da Ballarò. Non credo. Ha detto. Se sono per l'alluvione, come vi ha detto, va bene. Intanto vediamo di tirar fuori la gente da quell'alluvione che grida vendetta più che mai. Ribadiamo, c'è gente che 3 anni fa ha avuto tutto distrutto e non aveva ancora rialzato la testa e si è ritrovata nello stesso punto, nello stesso luogo, con lo stesso fango e un solo uomo, e un uomo che muore, e un mondo intero che muore, un solo uomo ha perso la vita a fronte delle 6 persone, delle 6 donne che erano morte nel 2011. Interrogarsi su questo, al di là di 2.000, 1.100 polemiche, contro polemiche, e fare, verbo sacrosanto, fate presto. In Italia fare. Dimmi, Luca. Però posso essere un po' controtendente. Cioè, mi sembra che nel 1970 a Genova siano morte più di 40 persone. Cioè, questa cosa del maltempo che uccide non è vero che è una novità eccezionale. No, c'è sempre stata. Bisognerebbe che anche il paese si responsabilizzasse un po' su come si è costruito, come si è urbanizzato. Come si è cementificato, è chiaro. Perché non è nemmeno possibile pensare che tu stai sopra il cratere di un vulcano e qualcuno abbia il dovere di togliere. Ma è chiaro, come mi ha detto il sindaco di Giugliano, credo, in provincia di Napoli, nel cratere, a zona rossa del cratere del Vesuvio, ma che protezione civile, noi speriamo in San Gennaro, è stato ospite di recente, dai. Andiamo al traffico. Subito Dudu mi ha cominciato prima, subito mi ha fatto festa, poi mi ha cominciato a leccare in bocca, che ho detto tesoro, ma schifo, senza neanche un mazzo di fiori, dico, ma subito al sodo questo Dudu, infatti, mamma mia, devo dire a buon gusto questo Dudu. Ma se l'articolo 18 l'avesse tolto Berlusconi, ma la sinistra sarebbe scesa tutta in piazza. E io qui ci aggiungerei una bella citazione di Crozza. Signori miei, che cosa c'è dietro tutto questo? Dietro il DEF? Niente, non c'è niente, signori miei. Alessandro Mila, una domanda. Ma come mai che adesso quando parlate, quando c'è il giornale radio, c'è sempre il sottofondo musicale? Ma noi che dobbiamo ascoltare la musica, e poi una musica così lagnosa. Parla, si è buono a parlare, ma avrei fatto, non capisce niente questo qui, non vale niente. Tu sei il grande Alino Milan e tutti gli altri non sono un cazzo. Su Google appena digiti Rossell, così già ti mette fuori Rossella Brescia. Gnocca VIP. Oh, Nina, ma le pippe guarda che non fanno mica tanto bene la tua età, Mi raccomando, Stai attento, il cuore, quelle cose lì. Piano, piano. Alessandro Milan. Poro, po, po, po, poro. 24 mattino. Vabbè, ma cosa, ma vi rendete conto? Ma caro ascoltatore, ma siamo matti. Vabbè, sì. Ma più rispetto. Ma insomma, te l'hai cercata anche tu. Sì, me la sto cercando, sì, effettivamente. Questa cosa un po' è vera, un po' è vera. Allora, qui siamo andati avanti, siamo andati oltre. Allora, io ho subito Vanity Fair, perché? Ma ieri, perché? Ma è vero che ho incocciato un tweet di Luca Dini che hai scritto che c'era un gnocco in copertina, una roba del genere? Era una risposta a chi mi chiedeva un gnocco in copertina. Robert Downey Jr., Paola Saluzzi, va bene? Va benissimo. Approvato? Va benissimo, anche perché è un grandissimo artista. Ancora presumo di essere un grandissimo gnocco, ma insomma. Beh, sì, 49 grazie. Anni, ma ben portati. Insomma, è un gnocco stagionato. Gnocco stagionato. Vuoi mettere. Però io ho sempre le mie letture un po', sapete, a latere, diciamo così, di Vanity Fair. Oggi siete riusciti, non è che riuscite a entrare, insomma, raccontate delle storie, immagino non entrando, ma raccontando delle storie da Raqqa, capitale dello Stato Islamico. Storie terribili, ovviamente, però forse da conoscere. Sì, perché secondo me, sai, quando si va poi lì in quella zona di confine dove ci sono i profughi, eccetera, poi alla fine per rendere la cosa veramente viva e calda e capire che cos'è, cioè, più che fare la cronaca dei movimenti, dei combattimenti, cioè ascoltare le storie di chi ha vissuto lì dentro, che cosa è successo. Cioè, ragazzi, gente che dice mio cugino era il tagliatore di teste, ma vi rendete conto? Cioè? Sì, il cugino di 17 anni. Sì. Si parla di bambini e ragazzini, ma si parla anche dell'ipocrisia, per esempio, delle mogli di alcuni di questi capi venuti poi da altri paesi che a casa fumano tranquillamente e per strada fanno lapidare chi fuma, cioè, sì. Insomma, addirittura ex prostitute che si sono diciamo reinventate come polizia del buon costume, cioè, delatrici, cioè una situazione veramente, oltre che terrificante, anche estremamente falsa da tutti i punti di vista. Sì, di una rappresentazione abbastanza falsa. Comunque lo trovate su Vanity Fair. Mentre Paola Saluzzi, che fai oggi? Di che ti occupi? Di politica forse ti occupi alle 15? Ma ci occupiamo di politica. Ma no, ma liberate Paola Saluzzi! Free Paola Saluzzi anche! Questo sì. Free Paola Saluzzi dalla politica! Ho due meravigliosi altieri, voglio dire. Se detto da Luca Digni, Alino Milan, sì. Voi capite che... Ci riusciremo. Sì, comunque politica e vediamo che cosa ne viene fuori, insomma, dai. Argomenti per capire anche, oltre a essere occupati di corruzione, che quella non manca mai, ma anche che cosa sarà di questa legge di stabilità. C'è anche la legge di stabilità, staremo a vedere, non ne abbiamo parlato perché mi sembra talmente tasse, detrazioni, spese, tagli di qui. Vabbè, grazie a Paola Saluzzi, grazie a Luca Dini, grazie alla prossima ovviamente. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Forza amici debosciati di tutta Italia, unitevi come dico sempre perché siamo nel pieno della 76esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province, dunque non c'è tempo da perdere. Noi qui parleremo ancora della situazione Ebola. Parleremo oggi alle 8.30 perché vogliamo capire anche se esiste un vaccino. Abbiamo fatto già una puntata su Ebola la scorsa settimana, è stata molto interessante, molto molto seguita da voi, e cercheremo di capire. Oggi tra l'altro il Secolo XIX racconta che c'è un caso sospetto a Savona. Oggi c'è una donna nigeriana che è stata ricoverata, oggi si sapranno i risultati. Avremo ospite anche però prima alle 8.15 il vice ministro della giustizia Enrico Costa per parlare delle cifre che ieri sono state date dai giornali di quanto spendiamo per i detenuti ingiustamente in Italia. Sono centinaia di milioni. La solita polemica sull'eventuale responsabilità civile dei giudici. Ne parleremo col vice ministro Enrico Costa alle 8.15. Ora sfogliamo i giornali. In questo mercoledì 15 ottobre i titoli intanto molti declinati sulla legge di stabilità che oggi alle 15 approderà sul Consiglio dei Ministri. Manovra, tagli per 13 miliardi e meno tasse sulle imprese, così titola il Sole 24 Ore in prima pagina. Mentre il Corriere della Sera, Moody's dà un po' di fiducia e Renzi sfida Bruxelles sulla legge di stabilità. Il Messaggero, conti e lavoro, l'ok di Moody's. La Stampa, manovra, l'Unione Europea avverte l'Italia. Il Fatto, finanziaria elettorale, questo è il titolo di prima pagina. Mentre per le altre aperture, Repubblica, arriva la legge sulle unioni civili ma solo per i gay. Questa tra poco la vedremo nel dettaglio. Il Giornale invece, scoperto il tesoro italiano, altro che falliti. Il Credit Suisse certifica, siamo terzi al mondo per ricchezza mediana privata. Libero, parla una gola profonda, i trucchi delle banche per fregare i clienti, e vedremo anche questo tra poco, anzi mi tuffo subito nella lettura dei giornali, a cominciare dall'apertura di Repubblica che prende spunto, come tutti i quotidiani abbiamo sentito, della visita, cena di Vladimir Luxuria ad Arcore da Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Ovviamente qui siamo già nel florilegio delle elegie, delle interviste incredibili che Vladimir Luxuria concede, una al Fatto Quotidiano nella quale afferma di aver visto la sala del Bunga Bunga, nella quale afferma Sandra Murri che la intervista che è stata ricevuta da Dudù e Dudina appena varcata la soglia, che Dudù la leccava in bocca. E lei ha detto, Vladimir Luxuria, ma insomma neanche con un mazzo di fiori passi subito al sodo, Dudù. E Berlusconi? Berlusconi ha riso e ha decantato e ha declamato una poesia sugli animali di Madre Teresa. Ora voi immaginate questa scena, condita con selfie, il selfie di Vladimir Luxuria con Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, il selfie con Dudu, com'ero vestita, leggings e maglia argentata. Così Vladimir Luxuria. Il tema in realtà molto più serio lanciato da Repubblica è proprio questo: arriva la legge sulle unioni civili ma solo per i gay. E è pronto il piano dell'esecutivo di Renzi. Repubblica dedica pagina 2 e 3 a questo tema con Francesco Bei. Si chiameranno così i nuovi matrimoni gay, unioni civili. E il governo si appresta a presentare tra pochi giorni la legge, un disegno di legge che nei suoi aspetti essenziali ricopia il modello in vigore in Germania fin dal 2001. È molto simile al matrimonio, tranne che per due aspetti essenziali. Non si chiama matrimonio e non si possono adottare bambini esterni alla coppia, mentre si potrà adottare da parte di un uomo o una donna il bambino del compagno o della compagna. Tutto è pronto, scrive Repubblica. Matteo Renzi ha chiesto ad Antonella Manzione, capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, di preparare un testo da portare al Consiglio dei Ministri entro la fine del mese. Dopo anni di tira e molla su Pax, Dico, Didorè, stavolta sembra quella buona. Ai vescovi confida il Premier, gliel'ho già detto, si mettano l'anima in pace. Renzi, insomma, punta alle unioni gay. L'aspetto più delicato, racconta Repubblica, sul quale anche i vescovi hanno chiesto a Renzi cautela, è quello che riguarda i figli, e il punto di mediazione è che l'adozione del bambino sarà possibile solo se uno dei due genitori è quello biologico. Un partner dunque potrà adottare il figlio naturale dell'altro, ma nessun affidamento di bambini esterni alla coppia. Per il resto, diritti e doveri saranno quelli del matrimonio tradizionale: reversibilità della pensione, diritto alla successione in caso di morte, possibilità di assistenza negli ospedali e nelle carceri, partecipazione anche ai bandi per le case popolari, sussidi fiscali. Dunque, tutto come il matrimonio, solo non si chiama così e no all'adozione. Repubblica racconta, siamo pronti, Renzi è pronto a presentarlo nei prossimi giorni. Mentre ovviamente la vicenda di Vladimir Luxuria dà la stura a una serie di articoli. La Gaia scienza del cavaliere, Salvatore Merlo sul Foglio analizza la destra e lo psicodramma della destra di fronte a questa scena che spiazza tutti. Luxuria al castello di Arcore e il partito svenuto. Sorride solo Confalonieri, scrive il Foglio, che dice alla fine è Platone, siamo sempre lì. È come Alcibiade che si rivolgeva a Socrate, tu non mi volevi, o forse è Gide la difesa dell'omosessualità, o forse è semplicemente la Francesca, eh? Francesca Pascale, evidentemente, spiritoso com'è, scrive Salvatore Merlo, il vecchio amico del cavaliere, vale a dire fedele Confalonieri, racconta questa svolta. Forza Italia smarrita tra i no, non mi fate parlare, di che non mi hai trovato, alcuni parlamentari al cronista, addirittura così, o addirittura Daniela Santanchè che dice meglio Luxuria che Alfano. Insomma, comunque il partito di destra di Forza Italia è certamente smarrito di fronte a questa giravolta di Silvio Berlusconi. Ma io voglio andare subito a Libero e all'apertura di Libero, perché Libero racconta l'uscita di un libro. E il titolo di prima pagina è questo: i trucchi delle banche per fregare i clienti. È Francesco Specchia che racconta l'uscita di questo libro, scritto da Vincenzo Imperatore, ex dirigente spietato e veneratissimo, che ha scritto un libro per Chiare Lettere dal titolo Io so e ho le prove, confessioni di un ex manager bancario. Racconta questo manager come le banche fregano i clienti. Il nome in codice bancario 72H evoca crittogrammi e cospirazioni. Nella realtà è molto peggio. Direttore, abbiamo un problema. Un cliente fa casino in coda per la polizza che gli abbiamo venduto e dice che è una truffa e ci denuncia. Panico. Sguardi liquidi. Attimo di silenzio. Il capo filiale dice procediamo col 72H. La procedura 72H è un sistema rapido, da blitzkrieg, risolvere cioè in 72 ore. consente alle banche di attingere ad un'apposita riserva di denaro dai 500 euro ai 10.000, a seconda della filiale, da mettere sul tavolo alla bisogna per sedare l'ira del correntista che ha sgamato qualcosa. Occorre che il correntista però si presenti fisicamente e che si incazzi sull'orlo della denuncia. Nel caso di qui sopra, il correntista ha ricevuto 3.000 euro, le scuse ipocrite del direttore, un caffè freddo ed è finita lì. Ecco, questo è uno degli episodi che Vincenzo Imperatore, ex impiegato di banca, racconta, o meglio, ex dirigente in banca, racconta nel suo libro. Per esempio, prendete il caso di che cosa? Delle cosiddette manovre massive sul tasso di interesse, senza avvertire le banche, aumentano dal 1 gennaio ogni terzo trimestre impercettibilmente 0,1 o 0,01% il tasso di interesse a tutti i conti correnti indiscriminatamente. Statisticamente se ne accorge solo il 3% della clientela e solo via posta ordinaria a metà aprile. Quando il correntista tignoso si fa vivo, scatta il 72H. Quella manovra di cui abbiamo parlato, e la cosa rientra, ma non rientra quasi mai. Prendete il caso di fusione, le condizioni economiche contrattuali, le banche le modificano sempre surrettiziamente a proprio vantaggio, oltrepassando i limiti stabiliti dall'articolo 118 dal testo unico con lettere semplici. Fatevi mandare la raccomandata. Insomma, via così. Il manager pentito racconta in un libro: così la banca vi frega. Tasse di interesse, polizze, mutui, derivati. In un libro l'ex dirigente racconta tutti i trucchi attuati dagli istituti di credito per ingannare i clienti. Come dire, secondo voi vince questo il premio Mani sul volante per l'articolo che ci fa pensare oggi? La risposta è sì. Perché, come dice un simpatico concorrente, la carta costa. Alino Milan, il Justin Bieber dell'informazione. Sì, sì, per l'età soprattutto, il Justin Bieber dell'informazione. E adesso si arrabbieranno quelli di One Direction. Vabbè, oggi è il giorno della legge di stabilità. Le 15 approderà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Per l'approvazione, e poi verrà mandata all'Unione Europea, e qui si gioca la partita, come raccontano i giornali, molto, perché l'Unione Europea è pronta anche alla bocciatura. Non lo dico per pessimismo, lo dico perché leggendo i giornali si evince questo. Comunque, tutti i dettagli di quelle che possono essere le anticipazioni, che poi dovranno essere confermate oggi, sono sul Sole 24 Ore con Marco Mobile e Marco Rogari, che a pagina 3 raccontano sotto il titolo TFR in busta paga 2 miliardi dalla sanità. La manovra è da 30 miliardi, si confermeranno i 18 di alleggerimento di peso del fisco del costo del lavoro per le imprese, di cui 10 per la stabilizzazione del bonus da 80 euro, 500 milioni per rafforzare gli sgravi per famiglie numerose, 6 miliardi e mezzo per azzerare la componente costo del lavoro dell'IRAP, 1 miliardo per la decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato a tutte le crescenti. Operazione quasi in toto per coperta coi 13 miliardi di tagli alla spesa, di cui 4 a carico delle regioni, e qui già Roberto Turno racconta nell'articolo a fianco che le regioni sono sul piede di guerra. Sergio Chiamparino, che presiede il Piemonte ma anche la conferenza dei presidenti di regione, dice 4 miliardi sarebbero insopportabili come tagli per le regioni, l'ho detto in tutti i modi da Renzi in giù, mi auguro che siano decisioni non irreversibili e che ci sia spazio per un confronto. Effettivamente le regioni già si lamentano. Per il TFR però pare che si vada a metà 2015. Il TFR in busta paga dovrebbe essere un dossier da metà dell'anno prossimo. Comunque, queste sono le anticipazioni. Dopodiché vedremo oggi. E dopodiché partirà la partita con l'Europa. Mario Sensini oggi sul Corriere della Sera, pagina 8, racconta sotto il titolo La sfida del Premier all'Europa sul deficit. La manovra non cambia, la sfida con l'Europa ormai è aperta. E Renzi ha comunicato direttamente a Jean-Claude Juncker nel corso di una lunga e non proprio distesa telefonata che la correzione del deficit si fermerà a quanto previsto nell'aggiornamento del DEF, lo 0,1% del PIL. con questi margini, con questi numeri, la manovra che sarà approvata oggi, con uno spazio per recuperare 4 miliardi, sicuramente verrà, scrive almeno il Corriere, quasi certamente verrà bocciata dall'Europa, ma tanto che Renzi punta a creare una sorta di caso Italia, scrive il Corriere della Sera. Vuole creare un caso Italia, cioè vuole creare un dibattito per avviare una discussione concreta nell'Unione Europea sulla disciplina e la flessibilità delle regole di bilancio. Sta di fatto che così, stando le cose, va verso una quasi certa bocciatura la legge di stabilità italiana. Dopo la telefonata non distesa con Juncker, racconta il Corriere, Renzi avrebbe avuto, questo secondo Repubblica, anche una telefonata definita burrascosa con José Manuel Barroso, il commissario, il presidente della Commissione Europea uscente, per lasciar posto proprio a Juncker. Alberto D'Argenio racconta in questo retroscena su Repubblica, pagina 6, Renzi litiga con Barroso e punta su Juncker. Il premier italiano Renzi ieri ha sentito sia Juncker che Barroso, due telefonate molto diverse. Quella con Barroso è stata burrascosa, scrive Repubblica. Il presidente uscente della Commissione, vociferavano ieri i ministri dell'Ecofin, ha preannunciato una sonora bocciatura della finanziaria italiana. Chiede che la manovra a 30 miliardi che verrà approvata oggi incorpori 8 miliardi di risanamento, un taglio del deficit strutturale pari allo 0,5%, richiesta inaccettabile per Renzi, che giudica un intervento così rigorista una mazzata per l'economia italiana. Insomma, si prevedono tempi duri con l'Unione Europea, tanto che José Manuel Barroso fa un'intervista vera e propria, viene intervistato dal Corriere della Sera, intervistato da Luigi Offeddu. Il titolo è questo: l'Italia è stata vicina all'abisso, ma non può incolpare Angela Merkel. Sentite come parla il presidente uscente portoghese della Commissione Europea. Molti pensano che la situazione italiana sia il risultato di qualcosa che ha combinato Angela Merkel o l'Unione Europea o Lehman Brothers. L'ho sentito anche a Napoli in un convegno. Ciò è ridicolo. Chi ha creato il debito pubblico italiano? La signora Merkel? Così José Manuel Barroso inizia i suoi ultimi 15 giorni di doppio mandato e fa questa intervista al Corriere e ad alcuni giornali stranieri. E parlando dell'Italia dice appunto così. Poi parla della Grecia: abbiamo parlato spesso di Grecia, Portogallo, ma siamo stati molto vicini all'abisso anche con l'Italia, dice Barroso, e con la Spagna e la Francia. Italia e Francia erano sotto il severo scrutinio dei mercati in momenti estremamente drammatici. Io, presidente pompiere, io ho lavorato per l'Europa con tutte le mie forze, ora la vedo unita, aperta, pronta a diventare più forte dopo la crisi. Rispetto le critiche, ma credo alla mia coscienza. Così Barroso, che poi parla di altri temi, e sul tema flessibilità e deroghe che hanno sollevato Parigi e Roma, dice Barroso ancora: secondo i criteri dell'Unione Europea le regole decise dal Consiglio dei governi valgono per ogni paese. Questo conta. Noi non possiamo avere standard differenti, sarebbe inaccettabile e ingiusto accordare un trattamento di favore a qualche paese. Esiste un legislatore, una legislazione che ci conferma in questo. E dunque, bocciatura in vista per la legge di stabilità? Renzi, anche secondo Libero, dice non è un problema. Qualcuno proprio vocifera che voglia creare questa tensione con l'Unione Europea, creare il caso Italia. Oh, io vi segnalo questo articolo che Gianni Dragoni fa sul Sole 24 Ore. La premessa è questa: leggere solo se avete i nervi ben saldi. È la classifica, scrive Gianni Dragoni, elaborata dal Sole 24 Ore tenendo conto di stipendio base e bonus variabili dei manager più pagati in Italia. Vince Andrea Guerra, che è l'amministratore delegato ex di Luxottica, uscito un mesetto fa. Guadagna, tra stipendio e bonus, 61.700.165 euro l'anno. 61 milioni. Al secondo posto c'è il vicepresidente Luigi Francavilla, sempre di Luxottica, con 19.680.000 euro. Al terzo posto Sergio Marchionne, Fiat, che guadagna 19.189.000 euro. E poi si può continuare con Cavatorta, colui che è uscito da Luxottica dopo essere entrato, e lui è a 13.474.000 euro. E poi insomma, questa è la classifica, la trovate, i primi 52 posti. Pensate che il 52esimo manager più pagato in Italia è Giuseppe Marotta della Juventus, 2.203.400 euro. Non vedo Mauro Meazza in questa classifica, come diavolo possibile, Mauro? Buongiorno, buongiorno Alessandro. No, no, ma la classifica è corretta. Sì. Non Dragoni che elabora il Paywatch non si sbaglia. Evidentemente, come l'anno scorso, non sono stato così profittevole per un soffio, mettiamola così. Sei al 53esimo posto. Può capitare. Tra l'altro, devi sapere che oggi sul Sole 24 Ore c'è anche la segnalazione di un'indagine che viene fatta anche questa tutti gli anni sui paperoni, sì. Cioè chi ha patrimoni oltre i 50 milioni nel mondo, e ci sono, secondo questa indagine, 3.322 persone con patrimoni oltre i 50 milioni. Non ci sono i nomi, se no forse ho trovato quello di Alessandro Milan. Siamo molto distanti comunque dagli Stati Uniti, che ne annoverano 62.000 di 800 milionari, la Cina 7.600, insomma. No, questo vuol dire che, infatti, ne parliamo oggi su Sole 24 Ore, c'è spazio, per quanto può sembrare un po' così eretico di questi tempi, in questi tempi di recessione, anche per il mercato del lusso, che continua a crescere con le spese di chi può spendere. Ci sono persone nel mondo che possono spendere e spendere tanto. Infatti parliamo oggi anche di mercato del lusso sul Sole 24 Ore. Ma oggi è un giorno speciale perché... la legge di stabilità! No, sì, la TASI! Meno uno, è domani! Lo sapevo, ma volevo fare un po' così. La stabilità, non manchiamo di rispetto alla stabilità, che poi si risente. La stabilità è importante, infatti ne parliamo diffusamente anche oggi sul Sole 24 Ore, con le misure in arrivo, TFR e quant'altro, taglio dell'IRAP e così via, tutti i particolari in cronaca, come si diceva una volta. Però la TASI, attenzione, la TASI bisogna pagarla, anche perché se uno dice che evadere non è un reato grave, evadere le imposte, poi il fisco gli chiede il danno d'immagine, ma non voglio dire altro, è così, è successo a Vicenza, può esserci il danno d'immagine. No, in realtà il signore in questione che ha pronunciato la frase era proprio un contribuente specchiato, quel che sembra di capire, però si era un po' sbilanciato nel giudizio e il fisco, come dire, ha chiesto un danno d'immagine. Vedremo, ricordati della TASI, Alessandro, non facciamo brutte figure davanti a tutta l'Italia. Lo farò. Va bene, traffico. Oh, Milan, sì, il numero uno, ciao. Ciao. Allora, ieri Beppe Grillo si è presentato a Genova e non sono state rose e fiori neanche per lui. Nella sua città i titoli dei giornali sono questi: il Fatto Quotidiano, Grillo prendi una pala, e lui fate spalare Renzi. Non so se avete seguito questa passeggiata che ha fatto per Genova, accompagnato da quattro anche... insomma, energumeni, un po' bodyguard che non usavano mezzi teneri nei confronti di chi voleva mettere il microfono, di chi voleva fare una foto. Racconta Marco Imarisio: Grillo contestato dai volontari a Genova, ti metti un po' di fango per fare le foto. Siamo sul Corriere della Sera, pagina 3. Racconta Marco Imarisio: a peggiorare questa scena imbarazzante c'è il comportamento delle guardie del corpo, che magari non sono tali, come sostiene il capo in un messaggio sul blog, ma questo faceva molto, troppo aggressivo uno di loro. E si chiama Daniele Tizzanini, fa parte di un meetup genovese, racconta di aver avuto qualche piccolo problema con la giustizia, e racconta il Corriere della Sera, in effetti una condanna per spaccio di droga, una condanna per l'assalto a un pullman di tifosi del Verona. Il Secolo XIX è ancora più dettagliato, ritaglia un box, una parte della pagina per raccontare il bodyguard, tra virgolette, che ha accompagnato Beppe Grillo, pregiudicato per droga, alle spalle una condanna per un'aggressione con altri ultra del Genoa a un pullman dei tifosi del Verona, ma soprattutto nel 2002 fu pescato insieme a due persone con 300 grammi di cocaina e a fine giugno si filmò insieme a un amico durante l'aggressione al portinaio del secolo XIX che aveva pubblicato su di lui un articolo non gradito. Daniele Tizzanini. Magari Grillo non lo sapeva, però una spiegazione del perché farsi accompagnare da una persona con la fedina penale un po' così, lui che ci tiene molto, forse la può dare. Certo, la beffa, al di là delle polemiche politiche, la vera beffa per quel che riguarda Genova e l'alluvione è questa. Lo raccontano sia il Fatto Quotidiano che il Giornale. Dopo i tanti vi aiuteremo, vi daremo i soldi, saremo dalla vostra parte. Eccola qui la beffa su Equitalia, cartelle sospese, ma per un solo giorno. Il Fatto Quotidiano con Giampiero Calapà, pagina 3, avrete aiuti, non siete soli, eccetera, eccetera, le parole, le promesse. Ma nei fatti la prima cosa che il governo poteva fare non l'ha fatta, cioè la sospensione delle cartelle esattoriali di Equitalia per i genovesi. La sospensione c'è stata per un solo giorno, lunedì, mentre imperversava ancora il maltempo e vigeva l'allerta 2. E anche il Giornale titola così: l'ultima beffa agli alluvionati, tasse rinviate ma di un giorno. Eccolo qui l'ennesimo schiaffo ai genovesi abbandonati. Il sindaco di Genova Marco Doria fa una lunga intervista al Manifesto a pagina 5 per dire: noi siamo sindaci espiatori. Io ho sbagliato una cosa, a non urlare, a tenere i miei modi. Non ho detto che è stato tutto perfetto, si difende Marco Doria in questa intervista di Daniela Preziosi. Ci dicono che a Berlino avrebbero fatto prima e meglio? È possibile. Ma mi lasci chiarire di cosa stiamo parlando. Alcuni dei lavori fondamentali riguardano il rifacimento della copertura del tratto del torrente Bisagno, fatta negli anni 30, in epoca fascista. Questa copertura che ha tappato il Bisagno da Brignola alla Foce ha portato la capienza a 500 metri cubi d'acqua al secondo, ma l'ondata dell'alluvione è stata di 1000 metri cubi al secondo. Si tratta di un imbuto drammatico. Comunque, dice Doria, io sono stato dove dovevo, nella mia città. Certo, in questo momento ai sindaci vengono intestate molte più responsabilità di quelle che hanno. Non ho mai pensato alle dimissioni. Il mio dovere è affrontare la situazione. Dimettersi significherebbe non assumersi le proprie responsabilità. E se i magistrati hanno aperto un fascicolo per disastro colposo, risponde Doria, faranno il loro lavoro. Comunque, lo scaricabarile è proprio questo. Vale il titolo che avete fatto voi del Manifesto, dice Doria. Sindaco espiatorio. I sindaci finiscono per diventare i capri espiatori in situazioni di latitanza generale. Sta di fatto che ieri sono morte altre due persone in Toscana per il maltempo. Io sono rimasto sconvolto nel leggere quello che La Stampa pubblica a pagina 18. Massimiliano Peggio racconta di quando i Notav catturarono un carabiniere e la procura non indagò. Una vicenda per cui l'accusa dell'avvocatura dello Stato è stato lasciato solo, è la storia del vice brigadiere dei carabinieri Luigi De Matteo, che viene anche immortalato in una foto quando in uno dei recenti scontri all'estate calda del 2011 fu a un certo punto lasciato solo, cioè nella carica, racconta lui stesso: a un certo punto è stato dato l'ordine di retrocedere, mi sono trovato isolato, ho cercato di raggiungere il plotone ma sono caduto a terra colpito da un sasso e sono stato sequestrato, sono stato portato via dai notave. C'è una foto proprio che immortala sulla Stampa il momento in cui viene portato via dai Notav. Che ha fatto a quel punto lo Stato? Ha trattato per la liberazione del carabiniere. Lui stesso dice: sono stato circondato da una quindicina di persone incappucciati, mi hanno picchiato con calci e bastoni, mi sono buttato pancia a terra per evitare i colpi, ho infilato la pistola nei pantaloni, ma loro mi hanno svestito e me l'hanno presa e poi mi hanno portato via. Accusa l'avvocato oggi di questo ex carabiniere, che dice ha avuto 408 408 giorni di prognosi, 408. Ha dovuto lasciare la divisa, è stato assistito dal punto di vista psichiatrico, ora fa il contadino, ha cambiato vita e denuncia l'avvocato, è stato abbandonato a se stesso per la ragion di Stato. Non si volevano contatti tra polizia e manifestanti, ma sono state fatte trattative con persone fisiche per rilasciarlo, in cambio forse dell'impunità di chi lo aveva sequestrato. E questa è una vicenda molto molto poco chiara, diciamo così, che l'avvocato di questo ex carabiniere ha tirato fuori. E De Matteo, questo ex carabiniere, racconta la sua liberazione, rievoca più volte l'intervento di una ragazza con i capelli lunghi che ha convinto gli aggressori a lasciarlo andare e dopo gli fu restituita anche la pistola. Intanto noi alle 8.30 parleremo anche della vicenda Ebola. Oggi Repubblica mette in pagina le testimonianze anche molto drammatiche di vari missionari dalla Sierra Leone, uno dei paesi più colpiti. Noi tra l'altro abbiamo ospite Domenico Quirico, inviato della Stampa, che è appena rientrato dalla Sierra Leone per raccontare lì come l'epidemia va avanti. Racconteremo anche a che punto è la vicenda del vaccino. E attenzione, perché senza allarmismi, molti di questi casi poi si rivelano fortunatamente dei falsi allarmi, ma il Secolo XIX racconta che c'è un caso di Ebola sospetto a Savona. C'è una donna nigeriana che è stata ricoverata, è arrivata dalla Nigeria, è stata ricoverata e sono state fatte le analisi. Questa mattina si dovrebbero avere i primi responsi, il primo responso di quello che la riguarda. Comunque, caso sospetto a Savona. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi sì, non ho dubbi, non ho dubbi, va a Pierluigi Battista, che dedica mezza pagina al libro dell'ex presidente della Camera Bertinotti. Il libro Sempre da capo, in cui Bertinotti parla dalla lettera ai Galati di San Paolo, dall'assetto signorile della società, dalla lotta di Karl Marx. Ma basta! Basta! Siamo nel 2014! Basta! Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8:20 minuti, siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, ieri ho letto una cifra sul Corriere della Sera che mi ha fatto sobbalzare, effettivamente. La cifra è questa: 567.744.479 euro eppure 12 centesimi. Sono i soldi che lo Stato, quindi tutti noi, ha pagato per 22.689 casi di riparazione per ingiusta detenzione negli ultimi 20 anni. Insomma, risarcimenti in denaro andati a chi è stato incarcerato in regime di custodia cautelare e poi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile. Ne vogliamo parlare con colui che questa cifra l'ha resa nota, il vice ministro della giustizia Enrico Costa, che saluto. Buongiorno vice ministro. Buongiorno. Eccoci, del nuovo centrodestra. Questa cifra intanto cosa significa? Come la traduciamo praticamente? Che cosa come la possiamo spiegare? Ma noi dobbiamo dire che questo istituto, la riparazione per l'ingiusta detenzione, è stato introdotto con il codice di procedura penale dell'88. Ma i primi pagamenti sono avvenuti soltanto nel 1991, anno dell'inizio in cui sono state queste attività di liquidazione. È prevista dall'articolo 314 del codice di procedura penale, che recita così, io lo leggo testualmente, perché chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa. Quindi significa soggetti, persone che sono state arrestate, che sono state poste in una situazione di custodia cautelare e che alla fine sono del state prosciolte. Percorso giudiziario sono state. Però voglio dire, dobbiamo associare questa cifra a tanto più alta questa cifra, tanto più possiamo dire è un errore dei magistrati. Non sempre è così, mi pare di poter dire. No, ma devo dire che la cifra chiaramente può essere indicativa. Innanzitutto poi diciamo queste forme di riparazione variano da caso a caso. Ci sono chiaramente dipendono dalla durata della custodia cautelare, però chiaramente ci fanno percepire una tendenza e ci fanno percepire che nel corso degli anni non è stata posta una grande attenzione a quello che era l'evolversi di questa situazione, perché se noi vediamo il numero di liquidazioni per ciascun anno, quindi il numero di chiaramente di persone che hanno fatto ricorso a questa misura nel corso degli anni, chiaramente comprendiamo come si tratta di un fenomeno tutt'altro che trascurabile, e non dobbiamo dimenticare che dietro a ciascun numero ci sta la vita di una persona, ci questo stanno le sue trepidazioni, le sue ansie. Andare in carcere, andare in carcere è una cosa terribile, pensate, andare in carcere ingiustamente. Vice Ministro, ma è vero che lei ha una lettera di Enzo Tortora, colui che è considerato la vittima del caso giudiziario più clamoroso nell'ufficio, nella scrivania del suo ufficio al Ministero? Ebbene sì, ho questa lettera, è una lettera del 1983, non era indirizzata a me, era indirizzata a mio padre che aveva scritto un biglietto a Enzo Tortora che si trovava in carcere, ed è una lettera molto toccante di Enzo Tortora che rispondeva, lamentava chiaramente di essere stato lasciato solo in carcere diciamo questa giustizia in ferie come una rivendita di gelati. Era il mese di agosto, chiaramente questi detenuti abbandonati, trascurati, e lui dice: chi come me innocenti, lo diceva. 567 milioni, ovviamente una cifra, e come in tutte le cifre ci sono anche delle classifiche. È chiaro che le procure, laddove si perseguono reati per esempio di mafia, e infatti vedo che nella classifica di chi paga di più, di fatto cioè le ingiuste detenzioni sono, credo, a Catanzaro, Napoli, Palermo, laddove la custodia cautelare in carcere è anche più lunga per i reati, ipotesi di reati di mafia. Sì, ha detto benissimo, chiaramente ci sono delle condizioni diverse e ci sono anche dei presupposti diversi e dei termini diversi di custodia cautelare, quindi chiaramente nel momento in cui si deve operare la riparazione per ingiusta detenzione, questa deve tenere conto di questi fattori, della durata, chiaramente dell'impatto che questa ha avuto in via equitativa sulla vita di una persona. Sa, Vice Ministro, che c'è il grande dibattito sulla responsabilità civile dei magistrati. Secondo lei andrebbe introdotta? La responsabilità civile dei magistrati dovrebbe già esserci, astrattamente c'è nel nostro ordinamento, c'è la legge Vassalli del 1988, il punto è che questa legge si è rivelata inefficace perché dal 1988 ad oggi ad essere condannati sono stati tra i 4 e i 7 magistrati su questa cifra. Ma perché ancora, giustamente, come dice lei, siccome già c'è, eppure si dice sempre nessuno paga, cioè è una situazione in cui la legge c'è ma non viene applicata? È una situazione in cui chiaramente noi partiamo da una legge in base alla quale ad essere convenuto in giudizio è lo Stato innanzitutto, non il singolo magistrato. La responsabilità può esserci solo per dolo o colpa grave. Sì. La norma specifica che la colpa grave non può consistere in errori sull'interpretazione della legge e sulla valutazione del fatto e della prova. Capisce già che chiaramente si escludono molti casi. Andiamo ad escludere moltissimi casi. C'è un filtro previsto di ammissibilità dell'azione, nel quale rimangono ferme chiaramente un sacco di domande. Qualora poi lo Stato venisse condannato, inizia l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. È un nuovo giudizio, perché la prima sentenza non fa stato nel giudizio contro il magistrato. Però ai magistrati che oppongono l'indipendenza della magistratura come caposaldo, c'è da tenere conto anche di fattori fondamentali come l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma aggiungo solo la parte finale, che qualora il magistrato venisse condannato nel giudizio di rivalsa, indipendentemente da quanto lo Stato ha sborsato, il magistrato, secondo la legge Vassalli, può essere chiamato a corrispondere, a restituire allo Stato una cifra limitata, un terzo di una annualità di stipendio, non di più. Perché allora lei vuole proporre una commissione ministeriale per monitorare tutti gli errori e le eventuali leggerezze che sono all'origine del risarcimento? Cioè, dove vorrebbe arrivare questa commissione? Ma io sono convinto di una cosa, che sono importanti le statistiche, sono importanti i numeri, perché ci fanno capire chiaramente le dimensioni di un fenomeno, però è fondamentale verificare caso per caso, è fondamentale capire dove si sono condensati questi errori, se sono errori legati all'applicazione della custodia cautelare per reati che non la consentivano, se si tratta di errori di superficialità, se si tratta di altre ragioni che hanno determinato queste ingiuste detenzioni. Solo attraverso un'analisi specifica di quelli che sono i casi, verificando il soggetto e soprattutto verificando come mai quelle che sono state le ragioni specifiche, perché noi non le abbiamo da questi dati, che hanno determinato questi errori, possiamo come legislatori, chiaramente il governo anche attraverso l'iniziativa legislativa, portare quelli che sono gli opportuni correttivi. Diversamente è molto difficile dalla statistica trarre delle conclusioni su quelle che sono le vere effettive. Vorrebbe dire esaminare 22.689 fascicoli. Beh, io devo dire che secondo me è importante, magari andando indietro nel tempo, cercando di capire quelle che sono state le reali dimensioni del fenomeno. Oggi nessuno l'ha fatto, anche nel caso di responsabilità civile del magistrato. Andiamo a capire perché questa legge non ha funzionato. Certo, lo possiamo capire per le ragioni che l'ho evidenziato prima, ma anche nei casi specifici dove si è arenata la possibilità da parte di un cittadino di poter ottenere il risarcimento. Solo così, secondo me, potremmo essere legislatori consapevoli e apportare quelle che sono le migliorie utili al nostro sistema. Vice Ministro, vi faccio fare l'ultima domanda politica, perché lei è del nuovo centrodestra, sa che c'è questo, qualcuno dice, trambusto all'interno del centrodestra con un senatore, il senatore D'Alì, che è passato a Forza Italia. Lei era in Forza Italia, ovviamente, essere il nuovo centrodestra. Anche lei è attirato dalle sirene o riattirato dalle sirene di Berlusconi? No, assolutamente, io ho fatto una scelta molto chiara e molto netta, ho aderito al nuovo centrodestra, ritengo che la politica di questo governo sia una politica liberale, una politica che diciamo, corrisponde in pieno a quello che è il mio percorso, a quella che è la mia storia, a quelli che sono i miei valori. Poi ci sono degli amici che hanno fatto scelte diverse, chiaramente non è la le sua. Rispettiamo, però diciamo, io sono assolutamente saldo sulle mie posizioni. Allora io la ringrazio ovviamente, grazie per essere stato con noi, grazie, Vice Ministro della Giustizia Enrico Costa. Dopo la pausa pubblicitaria, e se volete vi do il numero per intervenire, 800 24 00 24, torniamo sul caso Ebola, caso nel senso che è un'emergenza in molti paesi. Avremo infatti ospite Domenico Quirico, inviato della Stampa appena rientrato dalla Sierra Leone, ma avremo anche ospite un biologo molecolare, Riccardo Cortese, che è fondatore di una società di biotecnologia che ha sede anche a Napoli, a Pomezia, e sta sviluppando il vaccino contro l'Ebola. È uno dei tanti tentativi ovviamente di trovare un vaccino contro l'Ebola, ma è uno dei tentativi considerati in stato più avanzato, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità pare abbia già chiesto tante forniture di questo futuro vaccino che si sta mettendo a punto, e quindi è un caso di una eccellenza italiana, se volete. Parleremo ovviamente di Ebola rispondendo alle vostre domande, per quello che riusciamo a fare. E oggi, ricordo, il secolo XIX racconta che c'è anche un caso sospetto a Savona di una donna nigeriana ricoverata, ma questa mattina si dovrebbe sciogliere la riserva e capire se davvero si tratta di Ebola oppure no. Tra poco. 24 mattino. Sono le 8:36 minuti. Leggo da ieri La Stampa. A Kenema, in Sierra Leone, c'è il cimitero di Dama Road, il cimitero di Ebola. Ci arrivi per un tratturo sterrato, nulla che ti ricordi che stai andando verso un luogo di sepoltura. La città brulica di esseri umani, ti chiedi con angoscia se mai sarà possibile fermare il contagio in questa massa. Ci sono belle moschee nuove a Kenema, con le cipolle dei minareti di un verde e un blu squillante, e sui tetti di lamiera orribili avvoltoi dal gozzo rossastro sbattono le ali aspettando carogne. Se mai la divinità di Ebola si è scelta una sede per il suo tempio sempre aperto, deve essere qui. Kenema e il suo cimitero sono un'allegoria, un labirinto, un incube, una rivelazione. Questo luogo e il suo enorme carico di bestiale sofferenza e paura sono già pronti per il giudizio universale. E forse, ignari, qui siamo già dietro le quinte della fine del mondo. A scrivere questo reportage molto intenso dalla Sierra Leone, uno dei paesi più colpiti in questo momento dal virus dell'Ebola, è Domenico Quirico, che è inviato della Stampa e che saluto. Buongiorno Quirico e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, noi ci preoccupiamo perché leggiamo oggi, apriamo il secolo XIX per esempio, e leggiamo che c'è un caso sospetto a Savona, ma oggi ci saranno i dati definitivi di una donna nigeriana. Abbiamo scoperto che c'è un caso di morte in Germania, in Spagna una morte, poi una infermiera contagiata. Dipende sempre da quel punto di prospettiva che viviamo le cose. Lì in Sierra Leone invece l'Ebola che significa? L'Ebola significa già migliaia di morti, di contagiati, significa un paese già fragilissimo, appena uscito da una terrificante guerra civile, ridotto alla dispersione, alla paura, significa le poche infrastrutture dello Stato, uno Stato, ripeto, uno Stato del terzo mondo, del quarto mondo, dove il reddito è di un dollaro, di un euro al giorno, si sono completamente disfatte, e che è in pratica amministrato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che cerca con la battaglia di straordinari eroi, che sono i medici che lavorano nei centri di trattamento e di isolamento dell'epidemia, di fermare Ebola, di farla regredire, di prenderne il controllo. Tra l'altro, un ospedale in cui ha raccontato tutti si sono ammalati, tutti coloro che sono in pratica. Questo risale al momento in cui Ebola è scoppiata, in cui tutte queste, diciamo, tutto quello che è stato successivamente organizzato, cioè i controlli sui controlli medici, l'isolamento dei casi sospetti, eccetera, non esisteva ancora. E all'inizio i medici della Sierra Leone hanno affrontato il caso con coraggio, ma senza mezzi, si sono infettati e sono morti. Questo è accaduto alcuni mesi fa. Ricordiamo tra l'altro che Ebola è un virus, come ci ha raccontato un epidemiologo di Medici Senza Frontiere, che nel 60% dei casi è mortale, che si tramanda per contatto di fluidi corporei, quindi sudore, sangue, urina, insomma tutti i fluidi corporei. Tu racconti nel reportage come il rapporto anche con la morte e con i corpi in Africa sia un rapporto molto fisico, di contatto, e questo purtroppo ha questo è stato uno dei veicoli, forse il veicolo principale della diffusione dell'epidemia, nel senso che quando Ebola ha fatto segnare i primi casi, i cadaveri sono stati toccati, lavati, in alcuni casi i riti funebri degli africani sono straordinariamente intensi e partecipativi, come erano forse da noi un tempo, quando non avevamo, come dire, con la morte questo rapporto di esclusione e di nascondimento. Allora l'acqua del lavaggio del cadavere viene sparso sui partecipanti al funerale o sui parenti come un segno di benedizione. Capite che questo ha determinato il moltiprarsi dei casi. Soprattutto questo non avviene più perché... Adesso ovviamente no, c'è molta più cautela. Tra l'altro oggi sulla Stampa proprio c'è un'intera pagina a raccontare vaccini, terapie, annunci, a che punto è la ricerca. Allora Quirico, io vorrei presentare un biologo molecolare che è fondatore e direttore di Okairos, una società di biotecnologia che ha sede anche in Italia. Si tratta di Riccardo Cortese, che ci parla dalla Svizzera, e che saluto. Buongiorno dottor Cortese. Buongiorno. Lei con la società ha scoperto e sviluppato nuovi vaccini, incluso quello contro l'Ebola. La sua società, diciamo la società per cui lei lavora, è identificata come una delle società che è forse più avanti nella ricerca, nello studio di trovare un vaccino. Sa che è la risposta che molti si attendono e molti chiedono: ma esiste un vaccino contro l'Ebola? Attualmente no, Cortese. Guardi, dipende dalla definizione. Il vaccino che noi abbiamo sviluppato, con cui abbiamo lavorato per gli ultimi parecchi anni, è un vaccino in stadio avanzato di sperimentazione, perché è già in corso la sperimentazione clinica nell'uomo, nei soggetti volontari, con risultati di sicurezza e di mancanza di effetti collaterali che saranno completi nell'arco di un mese e mezzo, prima della fine dell'anno. Dopodiché esisterà una seconda fase per dimostrare l'efficacia del vaccino, e la cosiddetta fase 2, sì, che sarà tutta svolta in Africa e certamente coinvolgerà le popolazioni a rischio di infezione. Che paesi, che paesi si sa già, cioè in che paesi dell'Africa bisognerà intervenire? Perché lì... Guardi, questo io non sono informato con precisione sulla strategia, perché si tratta ovviamente di scelte che dipendono anche dalla capacità organizzativa delle agenzie che regoleranno questo studio. Certamente in uno di questi paesi dove c'è l'infezione. Il motivo per cui non sono informato così in dettaglio è perché non è banale procedere alla sperimentazione clinica di un vaccino che normalmente prende anni per poter essere poi rilasciato per l'uso delle popolazioni affette. L'accelerazione immensa che c'è stata in questi mesi impone procedure eccezionali e certamente sulle quali c'è un intenso dibattito. C'è da dire che molti ancora ci chiedono, Cristiano ci scrive un messaggio di come è nato Ebola, ma l'abbiamo detto anche l'altra volta per quanto se ne sa, ma vorrei chiedere, non so se anche Cortese ci può aiutare, da quanto ho letto io è nato forse questo virus dai pipistrelli della frutta che l'hanno passato degli animali, dagli animali all'uomo, questa è un po' la catena. Guardi, molto... questo non potrei che ripetere questo, nel caso specifico l'Ebola è anche stato osservato in altri animali naturalmente, tra cui i primati, le scimmie, sì, e si sono descritti chiaramente parecchi altri tipi di specie di animali sono infettate, che poi tipo per esempio il maiale, cioè la esatta origine in questo caso sembrerebbe essere attribuibile ai pipistrelli. Ai pipistrelli. Allora facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Siamo con Domenico Quirico, inviato della Stampa, con Riccardo Cortese, biologo molecolare, fondatore e direttore di Okairos, che sta mettendo a punto uno dei vaccini in stato più avanzato contro l'Ebola, e anche con gli ascoltatori tra un attimo. 24 mattino. Allora, all'800240024 state chiamando intanto, io vorrei dare la parola a un ascoltatore da Treviso, Genge, e che spero di averlo pronunciato bene, immagino sia straniero. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, Genge. Di Treviso, Genge. Da dove è originario lei? Del Senegal. Del Senegal, dica. Sì, aggiungo che il termine Ebola deriva proprio del fiume che si trova nella Repubblica del Congo, ex Zaire. Sì. E volevo dire una cosa, che io entro perché dell'Africa a tempo variabile proprio mi fa storcere il naso, perché lei sa che la malaria sì, e le tante guerre proprio sponsorizzate dall'Occidente fanno più vittime in Africa. E poi adesso ne parliamo, perché abbiamo paura proprio della contaminazione oppure perché vogliamo debellare proprio la malattia? Cioè lei sta dicendo abbiamo una prospettiva molto occidentale. Guardi, le faccio rispondere da Domenico Quirico, che è uno che è inviato per la Stampa e voglio dire ha calpestato con i propri piedi tantissimi paesi nel mondo. Quirico ci dice, Geng dal Senegal, insomma il timore è che adesso siamo tutti preoccupati dell'Ebola, forse perché lo vediamo come uno spauracchio, però la malaria fa più vittime. Poi qual è veramente la nostra intenzione? Diciamo proteggere noi o fare qualcosa che risolva il problema per le popolazioni africane? Questa è una domanda molto complessa e molto pericolosa. Guardi, le risponderò in questo modo, dicendole perché io sono andato a fare questo servizio. Sono andato a raccontare Ebola, o tentare di raccontarla per carità, nei luoghi in cui è nata e dove sta facendo terribili disastri, perché mi sono indignato di aver visto sui giornali italiani pagine e pagine dedicate allo sventurato e pericolo americano che è rimasto contaminato, che poi credo sia morto, sì, e che va tutta la mia, veramente tutta la mia partecipazione umana, e di aver visto invece molto meno per i 5.000, 6.000, non so che punto sono, morti africani. Mm. Allora, è un po' l'accusa che ci faceva, è un po' l'accusa di Geng, insomma. Sì. Le rispondo di sì. Sierra Leone è un posto dove si muore per mille motivi. Si muore di malaria, si muore di affezioni di vario genere che dalle nostre parti porterebbero forse la seccatura di una visita del medico e qualche giorno a casa con antibiotici ed altre cose. Allora, io mi domando quando mai abbiamo parlato della Sierra Leone. Sì, ne abbiamo parlato perché c'è stata la guerra, ne ho parlato pure io. Sì. E poi la Sierra Leone era un paesucolo dove producevano diamanti. Il film forse ha richiamato, sì, un po' di attenzione su questo luogo. E poi è sparito nella, come dire, nel vuoto di un continente intero. Adesso ne riparliamo con cuore, perché evidentemente c'è qualche cosa che ci fa molto paura, la peste, il contagio, l'affezione di massa, eccetera, eccetera. Tra 20 giorni, 10 giorni, un giorno, spero, quando questa cosa sarà finita, la Sierra Leone con le sue malarie, con le sue malattie infinite, con le sue pestilenze permanenti, sparirà di nuovo in questo nulla. Questa è la mia risposta. Questo un po', questo è assolutamente vero. C'è un racconto, una prospettiva sempre occidentale. Ci sono grandi pagine, grande timore per quello che ci impaurisce, perché è più vicino fisicamente a noi. A proposito di paure, vorrei far ascoltare a Riccardo Cortese quello che Robert Gallo, noto immunologo, conosciuto al mondo perché è colui che ha isolato il virus HIV, ieri era all'Università di Messina e ha detto riguardo all'Ebola. Ma l'impressione di dire che non sia niente è sbagliata. Ebola di solito compariva un anno e poi per anni niente. Ora invece è riaffiorata e sta più a lungo e i contagi sono anche di più. Quindi non dobbiamo né sminuire, perché è un problema molto serio, ma dice Gallo, non dobbiamo neanche pensare che spazzerà via la civiltà, non bisogna esagerare. Ecco, Cortese, è proprio così, possiamo definire così Ebola. Ha sentito l'ascoltatore dal Senegal a dire: ma perché vogliamo fare anche questi vaccini? Davvero per debellarla o perché ci vogliamo proteggere noi occidentali? Beh, insomma, mi sembra una domanda difficile a rispondere, è una cosa delle intenzioni. Noi quando abbiamo iniziato a sviluppare questo vaccino, l'Ebola era considerata e conosciuta come una rarissima malattia virale, confinata in piccoli villaggi una volta ogni 2-3 anni, come appunto abbiamo sentito, e quindi noi, diciamo, l'ipotesi che potesse in qualche modo minacciare il mondo occidentale, a noi non c'era nemmeno passata per l'anticamera del cervello, non avevamo mica previsto questa epidemia. Quindi direi che la ricerca scientifica che è stata svolta negli ultimi anni è stata ispirata a tutt'altri principi che a quelli della difesa dei cittadini americani. Vogliamo sentire anche cosa ci chiede Sergio da Vicenza. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Dica. Volevo solo fare una domanda e se vuole anche un'osservazione, sì, che è questa. Sentiamo parlare di controlli, presumo, abbastanza stringenti negli aeroporti di persone che arrivano, sì, da paesi, chiamiamoli a rischio, ma tali sono evidentemente, ma non sentiamo mai parlare di che controlli e se vengono fatti. Mm-hmm. Sugli migranti che sbarcano sulle nostre coste. Guardi, perché chiaramente su questi poveretti ce n'è un po' di ogni tipo, chiaramente. Ne abbiamo, Sergio, completamente ignorato. Ma no, Sergio, non viene ignorato, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Tutte le persone che arrivano sono controllate. Certo, poi ci sono giornali come il giornale che raccontava la scorsa settimana che i controlli sono fatti male, dovrebbero essere più accurati. Giro la domanda anche questa a Domenico Quirico. Quirico, la scorsa settimana abbiamo avuto un ospite, una rappresentante di una Onlus in Congo, che ha detto: io sono ritornata dal Congo, sono arrivata a Parigi, poi da lì in Italia, e dalla partenza in Congo all'Italia nessuno mi ha preso nemmeno la febbre all'aeroporto. Ora questa cosa è migliorata almeno? Io non sono stato in Congo, quindi non lo so, posso parlare soltanto dalla mia esperienza, che è la Sierra Leone. Prima di uscire dalla Sierra Leone, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non lo Stato della Sierra Leone, i medici della Sierra Leone, le strutture sanitarie della Sierra Leone, che evidentemente praticamente quasi non esistono, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un protocollo per cui ogni viaggiatore che sale sull'aeroplano viene sottoposto a una serie di controlli, viene molto accurati, molto lunghi, tant'è vero che bisogna arrivare all'aeroporto quasi mezza giornata prima del decollo del volo. Senza il passaggio in questi controlli non ricevi la carta di imbarco e quindi non parti, vieni schedato in uno schedario mondiale, non solo della Sierra Leone, in tutti quelli che hanno avuto devi dimostrare di essere stati in certi posti piuttosto che in un altro, eccetera, eccetera, eccetera. E per questo evidentemente non ci sono bisogno poi all'arrivo di quarantene o di controlli di tipo particolare. Cosa succede al Congo non lo so, perché non ci sono stato. No, no, è chiaro. Sono paesi diversi, devo dire che la Sierra Leone. Tra l'altro non credo che in questo momento, certo è vero, l'Ebola è nata in Congo. Sì. Ma è sotto controllo. Non credo che sia in questo momento sia a livello di epidemia, quindi non credo siano necessari particolari controlli. Assolutamente no, infatti è abbastanza sotto controllo, non certo come in Sierra Leone o in paesi come la Liberia, dove la situazione, che ci raccontava anche l'epidemiologo di MSF la scorsa settimana, in Liberia la situazione appare davvero poco controllabile. Io per il momento mi fermo qui, ringraziando Domenico Quirico, inviato della Stampa, e Riccardo Cortese, biologo molecolare, fondatore e direttore di Okairos. E grazie, torneremo ovviamente su questo tema, perché il tema Ebola lo abbiamo affrontato e ritorneremo periodicamente. Ci fermiamo qui con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Paolo Corleone nella parte tecnica. A domani. ADP, leader mondiale nella gestione del personale. ADP-italia.com vi ha presentato 24 mattino.